Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, ben ritrovati a Salva Danaio che torna a monitorare, buongiorno da Deborah Rosciani, fatti economici e finanziari che riguardano le famiglie e i piccoli risparmiatori. Stamattina i giornali che sono tornati in edicola dopo due giorni di pausa enfatizzano molto alcuni studi che sono stati diramati nelle ultime giornate, alcuni da parte delle associazioni dei consumatori. C'è questo poi interessante pubblicato dalla Coldiretti, secondo la quale la crisi economica, il lavoro che scarseggia, le nuove tasse annunciate hanno fatto crollare i tradizionali consumi delle festività, con cenone e pranzo più morigerati e regali non solo utili quest'anno ma anche poco costosi. Quest'anno, secondo Coldiretti, sono stati spesi 2 miliardi e 300 milioni di euro in cibi e bevande consumati a tavola fra il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, e 9 italiani su 10 hanno scelto di trascorrere a casa con parenti e amici appunto alle festività. Una cifra di riguardo sicuramente, che conferma come non si rinunci all'appuntamento più tradizionale dell'anno, ma in ogni caso è una cifra che è in calo di ben il 18% rispetto a quanto si è speso lo scorso anno. È un calo tanto importante come non si vedeva, pensate, dal 2001, l'anno dell'attacco alle Torri Gemelle, quando il crollo dei consumi in questo periodo fu del 28%. Sono in calo da parte delle famiglie italiane anche le spese per i viaggi, d'altronde con i carburanti alle stelle si cerca di contenere l'uso dell'auto, mentre il settore che più di tutti ha risentito della crisi recente, questo è quanto sostiene invece l'osservatorio Codacons Federconsumatori, è quello dell'abbigliamento e delle calzature, dove il calo delle vendite è quantificato, pensate, nella misura del 30%, e tra l'altro le associazioni dei consumatori prevedono anche un flop in arrivo per i saldi invernali che partiranno la prossima settimana. Noi proprio la prossima settimana ne parleremo a Salva Danaio. Comunque questo è un po' il quadro generale delle cifre che abbiamo raccolto e che raccontano come stanno andando queste vacanze tra Natale e Capodanno. Noi ci soffermeremo oggi alla voce viaggi per capire quante famiglie si sono spostate in questo periodo, che mete hanno scelto, tra l'altro ricordando anche, questa è un po' una nota dolente per gli appassionati della montagna, che il clima mite non ha favorito certo le piste che sono poco innevate. Di questo poco fa mi si lamentava anche oggi il mio tecnico Carmelo Lauricella, pronto a partire, ma scierà poco, farà molto il babysitter per la sua bambina. E allora noi oggi vi vogliamo chiedere appunto che cosa avete scelto, come dire, anche la riorganizzazione finanziaria della famiglia vi ha imposto di rimanere a casa e di non potervi godere qualche giornata di vacanza fuori casa o fuori dalla vostra città, oppure se avete scelto appunto di organizzarvi per passare una settimana fuori, che budget avete destinato alla vostra vacanza, quanti giorni. C'è anche un altro aspetto da considerare, che come in tutti i periodi di grandi giri e di grande affollamento delle destinazioni vacanziere, magari le disavventure sono maggiormente in agguato rispetto agli altri periodi dell'anno. Allora noi stamattina, oltre a monitorare budget e tappe prescelte, abbiamo anche un legale di un'associazione dei consumatori che ci aiuterà anche a districarci nelle problematiche che si possono verificare in questo periodo. E allora, se ci ascoltate intanto da qualche località di vacanza, chiamateci o scriveteci all'800 24 00 24 o al 349 238 6666. Raccontateci le scelte che avete fatto, se avete deciso di farvi un bel regalo e quindi un bel viaggio, dove siete andati, quanto avete speso per voi e per tutta la famiglia, oppure raccontateci anche se avete deciso di accantonare l'idea perché in questo periodo appunto è un po' costoso per voi, come dire, fare questa scelta. Magari l'avete rinviata anche a gennaio, febbraio, proprio per non imbattervi anche nelle cifre che lievitano in questo periodo. Stamattina una mia collega in redazione mi raccontava che si sarebbe voluta regalare un bel Capodanno a Venezia con suo marito, le cifre sono letteralmente proibitive, e poi vi racconteremo anche appunto che tipo di budget aveva a disposizione magari e che cifre invece ha trovato appunto facendo un viaggio sui siti che magari danno l'opportunità di fermare un weekend nelle più belle città italiane. Allora, con chi chiacchiereremo questa mattina? Roberto Corbella, presidente di ASTOI, l'associazione dei tour operatori Operator Italiani, l'associazione appunto aderente a Confindustria. Dottor Corbella, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ha visto che per questa volta non ho chiamata per emergenze in giro per il mondo, primavera araba o grandi disavventure anche meteorologiche. Parliamo appunto di come sta andando un po' l'industria in termini generali, anche se dobbiamo dare questa declinazione di crisi perché non ce la possiamo più scrollare di dosso ormai, per cui vedremo un po' se questo settore tiene in Italia e come sta andando. Fabio Cannavale, fondatore di volagratis.com, buongiorno. Buongiorno. Ci sente, buongiorno. E poi, come vi promettevo prima, abbiamo anche il legale di un'associazione dei consumatori, l'avvocato Stefano Pierciaccante dell'Unione Nazionale Consumatori, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E dobbiamo confessare che 2 su 3 li abbiamo pescati sulle piste a sciare questa mattina. Non vi dico chi sono, ma ve lo posso anche dire perché sono l'avvocato Pierciaccante, appunto, e Fabio Cannavale. Giustamente stanno anche un po' monitorando, sperimentando sul campo come stanno andando le cose. Allora, io ho già anticipato come sempre ai nostri ascoltatori come possono interagire con noi, lo ripeto ancora, chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666. Avete l'opportunità anche di interagire con noi scrivendoci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. In alternativa ne avete tante, la quarta da qualche tempo è anche quella di interagire con noi sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Prima di tutto la borsa che oggi ha un andamento contrastato in Europa, perché Milano è negativa, perde mezzo punto, mentre sono positive per mezzo punto percentuale Parigi e Francoforte. Londra è chiusa per festività, naturalmente gli scambi sono molto rarefatti, ormai siamo in pieno clima festivo o semifestivo, per cui anche gli operatori magari hanno in molti chiuso nelle loro posizioni, per cui i volumi ne risentono di conseguenza. Però qualche caso interessante a Piazza Affari c'è. Peraltro vi anticipo già che domani a Salvadanaio faremo proprio il 2011 della Borsa Italiana, quindi esclusivamente di Piazza Affari, che ovviamente ha risentito anche delle tendenze macroeconomiche, finanziarie e internazionali, ma noi cercheremo di focalizzare l'attenzione sulle storie che hanno contraddistinto l'andamento della Borsa di Milano in questo anno che è stato davvero difficile per tutti. Euro su dollaro stamane a 1,3076, da monitorare lo spread fra BTP e Bund, tanto per cambiare, perché siamo di nuovo ben sopra i 500 punti base, siamo intorno ai 515 stamattina, il rendimento del titolo decennale è intorno al 7,1% e tutto questo in attesa anche di 2 importanti aste che si terranno nei prossimi giorni, organizzate dal Tesoro italiano. Domani il Tesoro va sul mercato con bot semestrali per circa 9 miliardi e dopodomani BTP a 3-10 anni per un importo compreso fra i 5 e 8 miliardi. Siamo decisamente in attesa di capire quale sarà l'accoglienza di questi pacchetti appunto sul mercato e tra gli investitori internazionali. Migliori titoli di Milano in pregiro più 4, A2A più 1,63%, i peggiori Unicredit meno 3,5%, Banca Popolare di Milano meno 2,39%, Intesa San Paolo e Mediobanca in ribasso di 2 punti percentuali. Lascerei la borsa, andiamo al tema di oggi immediatamente. Avevamo deciso per concludere quest'anno con le ultime puntate di Salvadanaio di alleggerire un po' i temi. Facciamo un po' di difficoltà per la verità, perché giriamola come la giriamo, ogni tema che scegliamo ha attaccato a sé comunque qualche risvolto della crisi finanziaria internazionale, degli effetti che la manovra finanziaria varata dal governo Monti il 4 dicembre appunto produrrà tra le tasche degli italiani. Saranno effetti abbastanza pesanti, soprattutto l'anno prossimo, aumento di tasse. E qualche effetto l'abbiamo già visto, uno dei tanti che le associazioni dei consumatori hanno enfatizzato da tempo, sul quale appuntano il dito da tempo, è stato per esempio l'aumento delle accise sui carburanti, che ha reso molto più costoso fare il pieno, e questo è uno per esempio degli sicuramente temi che hanno generato qualche scelta precisa da parte dei consumatori che volessero o avessero scelto di andare in vacanza da qualche parte quest'anno. Carburanti più costosi appunto, ma non solo. Io comincerei subito a fare qualche monitoraggio sulle tappe scelte, i budget destinati alle vacanze di quest'anno. Comincio con Fabio Cannavale, fondatore appunto di volagratis.com, che è un sito leader nel settore dei voli e dei viaggi, che ha analizzato proprio di recente le prenotazioni con partenza compresa fra il 15 dicembre e il 15 gennaio per analizzare le tendenze di viaggio degli italiani per Natale e Capodanno. Quali mete, Cannavale, soprattutto avete intercettato anche i budget di spesa? Allora, la nostra osservazione è che gli italiani non rinunciano alle vacanze, almeno prenotando su internet, ma fanno vacanze più brevi e più economiche. In tutto questo quadro negativo che ha dato, darei una nota positiva. I però l'ho fatto con veramente... un gran sorriso in faccia. Sì, no, ma anch'io dico, i prezzi sono buoni, quindi ci sono delle ottime occasioni. Mi dicevano proprio stamattina che tra il 25 e il 26 dicembre abbiamo venduto 100 pacchetti per andare in Mar Rosso all'Epifania, perché chiaramente costa 590 euro andare al Coral Bay, che è l'albergo più bello del Mar Rosso, e quindi alla fin fine la gente... quando una cosa che l'anno scorso pagava 1000 probabilmente, qualcuno si muove. Stessa cosa vale per le capitali europee, Barcellona, Madrid, soprattutto la Spagna, in grande crisi anche loro. Barcellona vedevo stamattina con 200 euro nel sito Vola Gratis, si trova due notti più il volo per Capodanno ancora o l'Epifania. Quindi... Me la sono perso la Grecia, me l'ha citata? No, la Grecia in questa stagione si usa meno, ovviamente chi vuole andare in Grecia costerà pochi. Beh, quest'estate è stato grande boom della Grecia comunque, perché alla fin fine dove c'è crisi i prezzi sono più bassi, quindi ovviamente c'è la crisi, non possiamo negarlo. Quello che noi vediamo, allora noi per esempio sul sito Vola Gratis quest'anno abbiamo fatto più 20%, perché cosa succede? Che l'italiano va di più su internet perché sa dove ci sono le occasioni migliori. Fanno vacanze più brevi, magari 2-3 giorni, però grazie ai voli low cost e le offerte, veramente con 200-300 euro si riesce a fare un Capodanno, un'Epifania fuori dall'Italia, e magari con tutti i costi che ci sono adesso, il carburante costa quasi meno volare che andare in macchina. Quindi nella sostanza non si rinuncia al viaggio, lo si razionalizza se si può, visto che oggi comunque le opportunità sono molte, sia cercando il viaggio su internet ma naturalmente cercando anche delle occasioni. Tra l'altro Roberto Corbella, presidente di ASTOI, l'associazione dei tour operator italiani, trovavo anche da parte vostra un osservatorio molto interessante, so che avete rilevato che le prenotazioni sono partite a rilento all'insegna della programmazione sottodata per il clima di incertezza che ha contraddistinto il periodo. Però mi conferma anche lei che in ogni caso le famiglie italiane faticano a concedersi, a rinunciare di concedersi qualche giorno lontano da casa, appunto per rigenerarsi e rinfrancarsi? Beh, certamente c'è questa situazione di forte incertezza determinata soprattutto nell'ultimo mese, tutto quello che abbiamo sentito, le aspettative, gli annunci della manovra, alcuni poi si sono rilevati falsi, altri veri. Però questo ha fatto sì che le persone hanno atteso non l'ultimo minuto, ma direi veramente l'ultimo secondo per prenotare. Poi, come sempre, dobbiamo dividere, perché il famoso polo di Trilussa, allora quelli di fascia alta hanno prenotato anche con largo anticipo tranquillamente, le Maldive sono andate bene, su molte date già addirittura di gennaio c'è tutto esaurito. Altre mete più di massa hanno sofferto. Il collega Cannavale ha sottolineato prima per esempio le offerte sul Mar Rosso. Il Mar Rosso sicuramente, l'Egitto quest'anno ha sofferto per tutte le vicende politiche che ci sono state, anche se non hanno mai toccato direttamente il Mar Rosso, però c'è stata una flessione del traffico. I prezzi ne hanno risentito, quindi poi riscatta il rapporto domanda-offerta con prezzi di questa natura, come è stato ricordato prima, 590 euro. Abbiamo avuto dei momenti addirittura a 300 euro, la gente si sente in condizioni che costa meno andare in vacanza piuttosto che rimanere a casa, quindi è quasi un'opportunità per combattere la crisi. Poi dipende ovviamente dalle situazioni familiari, dallo spirito anche in cui noi, quindi la crisi si sente, però la gente, confermo quello che è stato detto prima, riduce un po' la durata, cerca con molta capacità e con molta determinazione le offerte, e un'altra cosa che abbiamo notato quest'anno, sposta un po' le date, cioè tende ad evitare le date di picco. Tradizionalmente la partenza, i picchi erano la settimana tra Natale e Capodanno, per passare il Capodanno fuori. Molti hanno capito che partire prima di Natale, quindi farsi il Natale fuori, o partire subito dopo Capodanno e farsi l'Epifania fuori, consente dei risparmi in alcuni casi del 20-25%, quindi è assolutamente appetibile la stessa località con condizioni assolutamente migliori. Mi ha colpito una precisazione che ha fatto all'inizio del suo discorso, dottor Corbella, cioè che per esempio per come dire i vacanzieri della fascia alta, quindi quelli che hanno comunque un budget sempre a disposizione considerevole, che non rinunciano e che la crisi non li intacca minimamente, hanno prenotato con largo anticipo ad esempio vacanze alle Maldive, adesso senza offerte offendere nessuno, perché mi rendo conto che magari qualche famiglia che quest'anno ha dovuto fare rinunce molto più importanti, perché magari si è perso anche qualche posto di lavoro, si indispettirà un po' a sentire questi ragionamenti, però mantenendo anche però il dovuto rispetto per chi riesce ancora a consumare, per fortuna, la fascia alta prenota con largo anticipo. Non disdegna dunque il risparmio, perché a prescindere dal fatto che magari immagina che non ci sarà nessun cambiamento nel budget familiare, quindi anche con 6 mesi d'anticipo si può già lasciar tentare da un viaggio alle Maldive, la fascia alta in ogni caso, prenotando con largo anticipo, qualche risparmio lo cerca, o no? Sì, ma diciamo è anche il bisogno, il desiderio di sentirsi garantito il posto dove vuole e quando vuole partire, quindi su certe destinazioni nelle date critiche si sa che la domanda spesso eccede l'offerta, e quindi chi è più, come dire, smaliziato su questo prenota con anticipo. Ma d'altra parte, allora, come dicevo prima, il mondo è composto da varie fasce sociali, questo che ci piaccia o no è una realtà, e vale anche in altri settori come quello automobilistico, dove soffrono di meno le auto di grossa cilindrata, adesso salvo le nuove tasse che forse faranno ripensare qualcuno, e soffrono di più quelle di fascia media. Quindi noi, come ci limitiamo ad osservare lo scenario, e vediamo che certamente chi è colpito di più dalla crisi è la fascia intermedia, le famiglie. Infatti. I giovanissimi, vuoi perché sono un po' più fatalisti, vuoi perché hanno meno impegni, meno problemi, non hanno mutui da pagare, non hanno altri problemi, tendono comunque ad andare, però sono anche quelli più esperti nel cercare le offerte speciali, che siano i last minute, che siano le varie combinazioni. Esattamente, no, ma infatti sicuramente anche lo spirito di adattamento è ben diverso. Racconto, mi sono fatta un fine settimana a Parigi quello scorso con 2 miei amici, abbiamo prenotato a luglio, immaginando, appunto, fermando una tariffa davvero ridicola, ci siamo fatti un fine settimana di tutto rispetto in una delle capitali più belle d'Europa, che peraltro, da quello che ho capito anche dai vostri osservatori, è una delle mete estere più ricercate quest'anno. Chissà se lì i prezzi sono più praticabili di Venezia, che invece ancora è per certi target città inaccessibile in questo periodo dell'anno, poi magari in altri periodi dell'anno invece la si riesce a godere meglio. Credo che ci dobbiamo fermare per la nostra prima pausa e poi comincerei subito a sentire le testimonianze dei nostri ascoltatori. C'è Alessandro da Pesaro e Roberto da Milano pronti a raccontarci la loro testimonianza. Poi andrò anche all'Associazione dei Consumatori, all'avvocato Pier Cacciante, che sta sciando su una pista. Gli chiederò naturalmente se questa è ben innevata, contrariamente a molte altre città note e rinomate appunto per questo nel nostro paese, che stanno facendo invece lamentare molti avventori che non riescono a godersi decorosamente la vacanza perché non c'è neve quest'anno. Non so se sia una buona cosa o meno che l'inverno chiaramente sia più tollerabile per chi il freddo come me lo soffre, ma di certo per gli operatori del settore in questo campo non si preannunciano introiti interessanti. Salva Danaio. Eccoci ritrovati in diretta. Gli italiani non rinunciano alle vacanze durante le festività, limitando comunque le spese. Le mete preferite sono in Italia e in Europa, anche se effettivamente anche per qualche destinazione un po' più lontana i prezzi si sono ridimensionati, la crisi naturalmente si è fatta sentire anche da questo punto di vista, e quindi diciamo che in qualche maniera abbiamo denotato, abbiamo anche individuato un vantaggio rispetto a quello che è accaduto negli ultimi mesi, e cioè che per attirare ovviamente più turisti anche mete che magari qualche anno fa ci sembravano inaccessibili e molto molto ambite, adesso sono un po' più, come dire, abbordabili anche per chi magari qualche tempo fa non pensava di potersi permettere, non dico le Maldive, ma magari anche Sharm el Sheikh, e quindi belle località dove c'è sempre caldo e quindi ci si rinfranca un po' meglio. Detto questo, stiamo monitorando un po' le scelte delle famiglie italiane quest'anno in termini di vacanze. E abbiamo già commentato il fatto che magari proprio per questioni di risparmi che sono necessari c'è chi ha scelto di magari partire dopo il Capodanno, oppure di ridurre il tempo di permanenza nella località prescelta. In ogni caso, appunto, vacanze più razionali rispetto agli anni passati, ma si è cercato di non fare anche questa rinuncia, perché davvero altrimenti la depressione ci investe. Detto questo, vorrei leggere qualche messaggio. Prima però mi devo scusare con l'avvocato Stefano Pierciaccante, perché tanto come al solito lo chiamo sempre in maniera diversa, come mi è già successo nelle altre puntate. Avvocato, buongiorno di nuovo. Il cognome che non è semplicissimo da pronunciare. Infatti, allora dovrò rivolgermi a qualche associazione dei consumatori per lamentarmi. Senta, no, adesso a parte gli scherzi, siccome lei sta sciando, ci dice dov'è, e tanto per capire anche se la neve c'è? Allora, io sono a Lavarone, in provincia di Trento. La neve c'è, ma è neve artificiale, neve sparata, ecco. Perché per fortuna le temperature sono molto basse, però è stranissimo sciare con intorno praticamente abeti verdi e prati piuttosto che neve, perché solo sulle piste c'è la neve. Per fortuna è neve buona, compatta, perché si scia davvero bene, però il paesaggio non è quello tipico della neve vera. Non è che quest'anno, come dire, i consumatori si rivolgeranno a voi anche per lamentarsi di questo fatto, non è che se... L'hanno già fatto in passato, però lì non possiamo intervenire, purtroppo. Contro il Padre Eterno, ecco, la meteorologia. Avvocato, tra l'altro, ha sentito un po' così le anticipazioni su come andranno le vacanze quest'anno, per chi se le può permettere naturalmente. Ci può subito già offrire una rosa di raccomandazioni per potersele godere al meglio, naturalmente? Quali sorprese appunto potremmo trovarci quest'anno, anche alla luce del fatto che effettivamente, riducendo forse i budget, non so, si scelgono anche località, non dico più a rischio, di assistenza e servizi, insomma, ma quali raccomandazioni per partire si sente di dare a chi è in procinto di partire, appunto? Certo, le raccomandazioni sono sicuramente quelle di rivolgersi a tour operator, in quanto soggetti professionali, in quanto capaci di riuscire a spuntare il prezzo più basso. Come ricordava il Presidente prima, si riesce anche a ottenere una riduzione su pacchetti che fino a qualche anno fa costavano di più, grazie anche alla professionalità degli operatori e anche alla possibilità di influire sui singoli prestatori dei servizi. L'altro motivo per cui si raccomanda di rivolgersi ai tour operator è perché in Italia, come noto, esiste da tempo un decreto legislativo, attualmente è il codice del turismo che è stato introdotto nel nostro ordinamento quest'anno, il decreto legislativo 79 del 2011, ma risale fin dal 95 la disciplina normativa in questo settore. Questo vuol dire che ovviamente se si acquista un pacchetto turistico da un tour operator, ovviamente si è più tutelati, perché poi caso mai andasse male qualcosa si ha una normativa proprio che rende il tour operator responsabile anche quando compiere l'inadempimento è stato l'albergatore piuttosto che il vettore aereo, quindi si crea questa sorta di responsabilità oggettiva nei confronti del tour operator, e quindi il consumatore anche da questo punto di vista è sicuramente più tutelato. Avvocato, non è che mi sta mettendo in una bella luce con il terzo ospite della nostra trasmissione, che è Cannavale di Vola Gratis, quindi mi sta dicendo che il canale online non lo raccomanda? No, da quello che ho capito anche loro vendono pacchetti turistici, perché si parlava di pacchetti di 200-300 euro per mete che fino a qualche anno fa per il Mar Rosso, quindi anche da lì ho capito che si tratta di pacchetti turistici. Ricordando quello che dice la normativa, il pacchetto turistico è la prefissata combinazione di due o più elementi di vacanza, quindi il viaggio e il soggiorno e ulteriori servizi accessori. Il discorso è questo: il rischio quando si è in questi periodi di crisi, nei quali ovviamente per poter sopravvivere bisogna abbassare i prezzi, è che abbassando i prezzi si rischia ovviamente di creare qualche disservizio. Quindi, ripeto, il consiglio rimane quello: rivolgersi ai tour operator e anche a quelli online, perché no, anche a Vola Gratis, per essere più sicuri di avere un soggetto professionale che è in quel settore da tempo e non si improvvisa, quindi, ma anche dal punto di vista della tutela ex post, quindi caso mai poi succedesse qualcosa, almeno si ha una normativa forte. Vorrei ricordare soltanto una cosa: per la prima volta con il decreto legislativo che ho citato, quello introdotto in questo anno e voluto fortemente dal ministro Brambilla, per la prima volta in Italia una norma che espressamente parla di danno da vacanza rovinata, perché era di derivazione giurisprudenziale, perché la Corte di Giustizia Europea aveva fatto questa sentenza in cui riconosceva il danno da vacanza rovinata, ma in effetti nessuna norma di legge ne aveva mai riconosciuto nel nostro ordinamento la valenza. E adesso ha assunto una dignità normativa, esatto. Benissimo, andiamo a sentire la testimonianza dei nostri ascoltatori, poi rifaccio un giro fra i nostri ospiti, appunto. Tra l'altro ci sono anche molti messaggi interessanti, ce n'è questo veramente fantastico, non si firma, questo nostro amico che ci scrive al 349-238-6666, dice: io non ho speso un bel nulla per i regali, in compenso spendo tutto per farmi le ferie ai tropici, caldo, sole caldo, prezzi stracciati, Bangkok o Koh Samui, volo e soggiorno per 3 settimane a 1.000 2.600 euro, almeno siamo a meno 2 dalla partenza, alla faccia dello spread. In questi posti i prezzi sono calati del 30%. Ottimo, siamo davvero contenti per lei. C'è invece Luciano che ci scrive: per quest'anno vacanze zero, la cassa integrazione incombe, le spese per tasse in aumento anche. Luciano, la salutiamo con affetto. Chi altro possiamo leggere? Io per troppo lavoro ho accorciato, ci dice Enrico. Io da una parte non so se essere come dire un po' depressa per lui o contenta, perché addirittura si lamenta per il troppo lavoro Enrico di questi tempi, forse è una buona notizia anche questo. Un altro ascoltatore: sono stato 8 giorni a Modena da solo, da amici, e 3 notti in hotel inizio dicembre in coppia con gli sconti, per cui come vedete appunto ci si può sicuramente divertire anche riorganizzando magari le nostre vecchie abitudini, anzi forse possiamo anche godere qualche volta anche meglio di certe località, quelle belle che scegliamo, perché le si frequenta magari quando sono un po' meno affollate. Sentirei Alessandro da Pesaro ad inaugurare le nostre chiamate. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, salve Deborah. Buongiorno, ci dica tutto. Per te e tutti gli ospiti. Volevo soltanto poi un po' di punti che avete già comunque toccato globalmente, diciamo, nella conversazione. Volevo soltanto dire che in effetti quest'anno secondo me bisognerebbe anche, per chi può chiaramente, spostare le vacanze magari a gennaio, a febbraio, dopo dipende anche dagli impegni di lavoro. Certo. Però ho visto delle offerte che magari tra un paio di mesi sono totalmente diverse a livello di importo. Per cui ho preparato un viaggio negli Stati Uniti, tipo New Orleans, visto che si risparmia moltissimo rispetto, se io partissi adesso, a tutt'altro costo. E anche il fatto comunque, l'ultimo punto diciamo, voglio toccare, il fatto che su internet si risparmia, però alle volte ho visto che anche andare dal tour operator, cioè fisicamente, ci sono anche delle buone offerte, dei buoni pacchetti che sono assolutamente da valutare. Niente, qui tutto il mio intervento vuol dire che chiaramente bisogna spostare anche, rinunciare per forza alla settimana bianca tra Natale e Capodanno. Ma a questo punto, in quest'anno, secondo me bisognerebbe anche rivedere un attimino anche il time, insomma. E infatti Alessandro, credo che quello che stanno facendo molte famiglie, come la invidio per il viaggio che farà Alessandro. È una località degli Stati Uniti che non ho ancora avuto la fortuna di vedere, ma che mi riprometto appunto di andare a curiosare sicuramente a New Orleans. Grazie Alessandro, buon viaggio naturalmente. Tra l'altro ci ha detto, ha già prenotato tutto. Quanto spenderà? Glielo posso chiedere a febbraio? Soprattutto ci faccia la differenza, quanto avrebbe speso se fosse andato adesso, quanto spenderà per andare a febbraio? Un range adesso varia di, non dico di migliaia di euro, però insomma 2.000 euro in meno, 1.500 ci fa altri due viaggi nel corso dell'anno con quello che risparmia. Esatto, perché volevo mettere a fare, siccome il 2012 si prepara come anno abbastanza, insomma, per gli effetti dobbiamo vedere di questa famosa manovra, per cui ho preferito preparare, cioè, un pacchetto mio, nel senso, io con il mio amico, poi New Orleans, poi Miami, cioè tutta la parte sud, Memphis. Bene. Per cui magari sono 2 anni, 3 anni che le suggerisco di fare un giro a Key West. Vabbè, ecco, esatto, altri viaggi non li ho fatti, però ci ho preferito concedere. Ottimo. Alessandro, buon viaggio e buon divertimento. Grazie. Alla faccia nostra e dello spread naturalmente. Grazie, buon fine anno a tutti. Grazie molte. Roberto Corbella ha sentito, vabbè, insomma Alessandro sicuramente ci ha ridato suggerimenti di buon senso. Certo che poi non tutti, tutti a febbraio possono prendersi le vacanze dall'azienda, e quindi magari ecco sono imposte a volte anche un po' in questo periodo, però suggerimenti di buon senso che possiamo raccomandare tutti. Ma direi di più, stiamo notando una cosa: storicamente gli italiani erano focalizzati su 2 momenti l'anno, Capodanno e Ferragosto, erano i momenti per le vacanze, con una fortissima concentrazione che ha portato alla lievitazione dei prezzi e spesso anche all'impossibilità di fornire la capacità che serviva adeguata per tutti coloro che la richiedevano. Oggi c'è una maturazione del mercato, forse complice la crisi, ma quindi la gente sta scaglionando molto di più le ferie, questo con un beneficio per tutti, per i consumatori prima di tutto. Abbiamo sentito le differenze così importanti che questo ascoltatore ha riscontrato, ma abbiamo sentito l'altro ascoltatore che ha la fortuna di essere a Bangkok e godersi il sole di Koh Samui. Allora, credo che questa crescita degli italiani, che non vedono più la vacanza come questo momento di fuga una volta l'anno, come si vedeva nei telegiornali di 20-30 anni fa, ma come una giusta, un giusto completamento della loro vita, un'occasione per ritemprarsi, un'occasione per coltivare interessi diversi, eccetera, riescono a pianificarle e posizionarle in maniera diversa. Vorrei anche dare una nota, prima c'è stata la battuta su internet piuttosto che tour operator, e giustamente l'avvocato ha fatto notare, ma sempre di pacchetti si tratta. Internet non è altro che un canale della distribuzione, diverso da quello che è il canale fisico, ma i prodotti che vengono venduti spesso sono gli stessi. E quindi direi che è importante che gli ascoltatori capiscano una cosa: in tutti i casi devono sempre cercare di capire bene che cosa comprano, di vedere che cosa la quota comprende, e qui assieme alle associazioni dei consumatori stiamo facendo un'azione forte proprio per favorire la preparazione del consumatore prima, quindi evitare che ci siano poi contenziosi. Poi abbiamo anche fatto un protocollo con molte associazioni per la gestione della conciliazione, che facilita anche il consumatore che avesse avuto un problema. Ma in principio dobbiamo evitare i problemi, dobbiamo fare in modo che le vacanze siano un momento veramente di gioia per ritemprarsi, eccetera. E certo. Quindi... Salva Danaio. Ci ritrovate in diretta, allora caccia alla vacanza quest'anno, e gli osservatori peraltro pubblicati negli ultimi giorni che hanno poi esplorato le scelte fatte dalle famiglie italiane sono tanti, ce n'è stato uno, quello di trivago.it, un portale che lo stesso va sempre un po' a monitorare in questo senso le scelte degli italiani, hanno scoperto questa analisi appunto di Trivago che le destinazioni più ricercate a Natale tra quelle italiane su tutte vince Roma, quanto all'estero appunto Parigi batte Londra come dicevamo prima, quindi Roma bene, mentre sembra che gli alberghi saranno semivuoti a Milano e Bologna, d'altronde insomma nella capitale dove la temperatura è anche sempre molto gradevole, in modo tale da poterla anche ben girare a piedi, come dire, determina anche questa inevitabile scelta da parte delle famiglie. Dicevo prima poi di Venezia, che invece si manifesta sempre come città tra le più care, a volte anche impraticabili, per cui se anche uno volesse mantenersi, fermarsi, rimanere in Italia e andare magari così a visitare delle città che non ha mai visto, e per molti Venezia è una di queste, in questo periodo insomma non ci si riesce con grande facilità. Fabio Cannavale, che ne dice per quello che riguarda l'Italia, il vostro osservatorio che cosa decreta? Roma sicuramente, e anche il sud Italia, dove ci sono sia vacanze fatte in albergo che molta gente torna per risparmiare, torna a casa da familiari in soprattutto Sicilia e Puglia. Volevo fare anche sulle due note, uno sulla neve, perché sennò poi sembra che non ci sia neve. Val d'Aosta è pienissimo di neve, naturale, in Engadina, quindi nelle Alpi centrali, e anche qui da noi c'è tantissima neve, quindi in realtà è solo il Trentino che non ha neve. Anche per, diciamo, le località italiane questa può essere una cosa positiva. Benissimo. Invece un'altra nota, che quello che dicevate prima su internet, ovviamente internet ormai è uno dei mercati maggiori, soprattutto per i voli aerei. Basti ricordare che 3 dei più grandi 5 operatori italiani di turismo sono operatori puramente online. Sì. Quindi il fatto di andare ad operatori grandi che possono avere una grande assistenza 24 ore su 24, come nel nostro caso, di assistenza 365 giorni all'anno, internet che alcuni anni fa era visto come vado, risparmio, chissà cos'è, in realtà oggi gli operatori grandi sono su internet. Gli operatori piccoli sono quelli, a parte diciamo Alpi Tour, gli altri sono tutti più piccoli degli operatori internet, quindi la sicurezza, la certezza dell'assistenza oggi si ha su internet. Volevo sentire ancora un po' le scelte delle famiglie italiane fra chi ha risentito della crisi relativamente e chi invece deve tirare la cinghia. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi dato questa grande opportunità. Grazie a lei Roberto, ci dica. Io non vorrei fare una voce fuori dal coro rispetto a quello che ho sentito, però so di non essere solo. Diciamo che fino all'anno scorso facevo parte di una famiglia di classe B. La classe B per me non è altro che una famiglia con marito, moglie che lavorano, un figlio, un mutuo, eccetera, eccetera. Diciamo che nell'ultimo anno tutto questo non si è mantenuto, ma mia moglie ha dovuto rinunciare al posto di lavoro e sta attualmente lavorando come part-time. Io sono in cassa integrazione e quindi tra le varie cose che sicuramente avrò modo di stringere la cinghia sicuramente sono i viaggi e tutto quello che è il diciamo, il tempo libero un po', certo. Le pesa, Roberto, che tipo di vacanze faceva fino a che è riuscito a farle appunto con serenità? Siamo sempre stati abbastanza nella cesta, come per dire, per usare un termine. Siamo sempre andati in un villaggio, andavamo solitamente qui in Italia, in Puglia solitamente, un villaggio tranquillo, per le esigenze familiari. Ma quello per l'estate, Roberto, sì. Magari in questo periodo? Ho rinunciato. Abbiamo rinunciato, perché comunque alle spalle e davanti un mutuo non ci possiamo permettere. Infatti bisogna assolutamente mantenere la vigilanza strettissima al budget, al bilancio, tra le uscite e le entrate. Roberto, in bocca al lupo per tutto, la ringrazio, speriamo grazie, che grazie avremo sicuramente un 2012 ancora complicato per molte famiglie, speriamo di vedere prima o poi una schiarita di questo tunnel, ma al momento appunto non si vede granché come luce, però già se la situazione di Roberto si mantenesse tale, se riuscissero a mantenere il controllo del bilancio familiare con quello che sia, come ci ha detto Roberto, moglie part-time o in cassa integrazione, è chiaro che la situazione cambia radicalmente da un anno ad un altro, per qualcuno a volte anche dal punto di vista emotivo una novità dirompente. Allora, Roberto Corbella, poi c'è anche un caso di un'ascoltatrice che ci racconta di una prenotazione fatta con una compagnia low cost per la quale ha trovato una sorpresa, poi lì chiederemo appunto l'ausilio del legale dell'associazione dei consumatori, ma volevo sentire Roberto Corbella un commento appunto sul caso che abbiamo appena sentito e chiaramente anche i tour operator, mi chiedo, nella piena consapevolezza e nella piena coscienza di quanto sono cambiate le condizioni economiche per molte famiglie italiane, hanno riorganizzato appunto anche, come dire, non lo so, la pianificazione dei servizi, certo, offerti. Che cosa è successo nel vostro mondo? Ma purtroppo di persone come Roberto o Luciano che abbiamo sentito prima ce ne sono tante nel nostro paese, e quindi prima di tutto la nostra solidarietà e simpatia in questi giorni così particolari, visto che hanno altri temi più importanti e più delicati da affrontare. Speriamo che a breve possano uscire da queste situazioni di cassa integrazione e tornare a godersi le vacanze. I tour operator e tutto il settore, diciamo, turistico, che cosa ha fatto? Ha cercato di ottimizzare le strutture, quindi tagliare tutti i costi non indispensabili, razionalizzare al massimo. Sono anche nati degli accorpamenti, si sono create delle filiere verticali, proprio dei giorni poco prima di Natale, che uno dei grossi gruppi ha acquisito anche una grossa realtà della distribuzione. Quindi si cerca di fare massa critica per poter meglio affrontare questo. I nostri corrispondenti nei vari mercati, prima lo diceva l'ascoltatore che ha mandato il messaggio da Bangkok, hanno abbassato i loro prezzi, quindi si sta lavorando tutti con una marginalità assolutamente ridotta per cercare di portare avanti questo mercato, che è comunque importante per il nostro paese e addirittura vitale per altri paesi. Prima parlavamo dell'Egitto, per l'economia egiziana, ma per molti altri paesi il turismo è veramente la vita, e quindi sono consapevole che va mantenuto, va difeso a tutti i costi, quindi stringono un po' tutti la cinghia, non come si diceva prima, come si temeva, a scapito della qualità dei servizi. Quindi viene dato comunque il servizio, prima è stato citato proprio nell'esempio fatto dal Canavale il discorso del Coral Bay, che è la miglior struttura di Sharm el Sheikh, con un prezzo assolutamente competitivo. È chiaro che questo discorso non può continuare in eterno, perché altrimenti non c'è più la marginalità. Quindi è un investimento nel breve termine, nella speranza di una ripresa a tempi ragionevolmente brevi. Una tenuta anche per voi. E speriamo che il 2012 smetta di portare nuove tasse e cominci a portare quella che è un recupero di efficienza e anche di produttività. Aspettiamo il piano per la crescita, chissà che non coinvolga anche a 360 gradi il mondo del turismo, anche valorizzando quello che abbiamo di tesoro nel nostro paese, in modo tale da portare sempre più persone in Italia. Francesca da Bergamo, ce la fai in 15 secondi a raccontarci la sua disavventura, così coinvolgiamo anche il nostro legale dell'Associazione dei Consumatori? Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno. Volevo solo dire questo. Normalmente io e la mia famiglia viaggiamo con voli low cost di una nota compagnia partendo da Bergamo. Quindi tutti abbiamo capito qual è. Nel comprare i biglietti, siccome io ho la Mastercard ricaricabile, prima non pagavo nessuna commissione. Adesso ho scoperto che devo pagare 14 euro a biglietto per persona, perché non accetto accettano più la carta ricaricabile degli italiani e per i residenti in Italia, Francesca, a meno che uno non faccia una carta con la compagnia chiamata Passport e con costi che possiamo immaginare gestita da un terzo che sta all'estero. Francesca, grazie. Si fermi lì, grazie molto. Avvocato Pier Ciaccante, la conosceva questa novità commerciale in casa Ryanair? No, non la conoscevo, ne apprendo adesso la notizia. Con curiosità, mi sembra una cosa sulla quale indagare. Sì, assolutamente, anche perché è assurdo un tipo di ricarico così alto, insomma, per chi da sempre ha effettuato l'acquisto del biglietto con le carte ricaricabili, che mi sembra poi da quello che ho capito addirittura è una esplicita scelta fatta nei confronti di turisti italiani che scelgono di viaggiare ed è un modo per costringere a effettuare l'acquisto di questa carta e quindi favorire altre società finanziarie o altre banche. Allora Francesca, infatti indagheremo anche noi, perché questa questione non la sapevamo, la ringraziamo per la segnalazione. Volevo solo rispondere, magari chiedo un ultimo aiuto a Fabio Cannavale di volagratis.com, perché un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666 commentando, credo, il caso dell'ascoltatore di Pesaro che ha deciso in febbraio di andare negli Stati Uniti con un vantaggio economico, quantificava di 2 milioni di euro circa per località prescelte, quindi il sud degli Stati Uniti, la Louisiana da quello che mi ricordo, poi anche il Florida, appunto Miami ha citato, forse parlava di un viaggio da 10-15 mila euro, quindi il risparmio sarebbe del 10%. Le posso assicurare che anche stando un mese negli Stati Uniti, a meno che non si scelgano veramente località e alberghi incredibili, queste cifre non si spendono. Cannavale, adesso ci si può permettere anche un bel viaggio negli Stati Uniti di 2-3 settimane, soprattutto fuori stagione, a cifre assolutamente ragionevoli, 15 mila euro solamente se prenoti un mese a Ritz li spendi a New York. Allora, gli Stati Uniti sono un posto molto economico perché c'è una struttura molto efficiente della distribuzione e quindi alla fin fine gli alberghi, quando sono vuoti, danno prezzi molto bassi e quindi si riescono a trovare sicuramente dei prezzi bassi, come anche nelle capitali europee. Ma infatti no, era per rassicurare che non esistono cifre di questo genere, a meno che non si... Devo chiudere perché mi stanno sbracciando i miei colleghi. Grazie a Roberto Corbella, Fabio Cannavale, l'avvocato Pier Ciaccante. Salvadanaio torna domani, buona giornata a tutti.